cose fa fare l'amore, quante cose anche sbagliate, quante cose solo sognate, solo vissute, ma anche perdute. Ma io ho trovato te, ma io ho trovato te, amore mio. Ma io ho trovato te, ma io ho trovato te, amore mio. E adesso che sei qui con me, io ti voglio sempre più sicura. E adesso che sei dentro me, io ti voglio sempre più sicura, perché nella vita quando si sbaglia si può anche cambiare, si può anche cambiare, si può anche cambiare. Ma io ho trovato te, amore mio. Ma io ho trovato te, ma io ho trovato te, amore mio. Quante cose fa fare l'amore, quante cose anche sbagliate, quante cose solo sognate, solo vissute, anche perdute.